Sul molo 23 la nave aspetta che sia colma di bananette. E in mezzo a quel fragor c'è il battito delle regine del caffè. Una Jenny che piange per amore e stringe a sé un mozzo del vapore. Lei non lo vuol lasciare, lui deve proprio andare, e le sussurra mi vedrai guardare. Ma che cos'è l'eterna storia di tutti qua? Ma che cos'è, forse la fine d'un amore? Ma che cos'è l'eterna storia di tutti qua? Ma che cos'è, forse la fine d'un amore? La nave è pronta già e la sirena va, gli innamorati a molestare. Ormai non resta più che dirsi a tu per tu, gli addì che fanno sospirare. Lei dice amore non devi più partire, senza di te mi sembra di morire. Lui cerca di spiegare che se la nave va, un marinaio non la può lasciare. Ma che cos'è l'eterna storia di tutti? Ma che cos'è, forse la fine d'un amore? Ma che cos'è l'eterna storia di tutti? Ma che cos'è, forse la fine d'un amore? C'è già il rimorchiatore che sbuffa con furor, la nave al largo è giunta ormai. I cari ascoltatori, trepiderete ancora, non sono finiti tutti guai. Lui nel vedere la donna sua laggiù, guarda nel mare poi si getta giù. Ed ora ascoltatori, scegliete per favore la conclusione più cara al vostro cuore. Ma che cos'è l'eterna storia di tutti qua? Ma che cos'è, forse la fine d'un amore? Ma che cos'è l'eterna storia di tutti qua? Ma che cos'è, forse la fine d'un amore? Ma che cos'è l'eterna storia di tutti? Ma che cos'è il nuovo sol che splende ancora, alluminar col suo splendore, l'amor che viene a ritrovare l'amor.